cos'è che c'è? Che Filocchi, c'è nessuno? Tutti, tutti! Ah, mi senti allora? Sì, sto usando quelle apparecchi, quel tipo di apparato cinese che ho regalato. Quindi c'è bene, grazie a Dio, è la ora. Pensavo non usciva. Come segnale non sei forte? Anche da questa esce forte, è a bomba pure. Ah, esco a bomba, visto è. Adesso me lo prendo questo apparato, così impari. 50 euro. Se chi vuole, bene, se lo prende e se lo porta via. Bello, la verità, l'apparato. C'è tutto già per il posto. A questo punto sta, non c'è niente da fare, niente, nulla. Si può scaricare il microfono e non si capisce bene. Dai, sono... non dire così, dai, che non è vero. Puttana, scorreggi, sta scendo. Vabbè, adesso faccio una cagata. E dopodiché, quando mi senti scaricare dal cesso, dici, ma non voglio più quel microfono, ti va bene? E andrà bene, aspetta, aspetta che metto il QRM qua. Shampoo. E io beh, sto arrivando. A voglia. Sì, devo cambiare l'antenna però. Metto un'altra ancora. In questi giorni la metto più in alto ancora. Ma sta scendo bene la verità. Sei perfetto. Ecco. Questo non è portatile però, eh. C'ho il microfono. Si nota che sono ancora. Con la roba cinese, sì, al PC. Ora, prova. Ora. Ora, prova.